Ad alta voce. Maria Paiato legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. In quanto alla maniera di penetrare in città, Renzo aveva sentito, così all'ingrosso, che c'erano ordini severissimi di non lasciare entrare nessuno senza bulletta di sanità, ma che invece ci s'entrava benissimo chi appena sapesse un po' aiutarsi e cogliere il momento. Era infatti così. E lasciando anche da parte le cause generali, per cui in quei tempi ogni ordine era poco eseguito, lasciando da parte le speciali che rendevano così malagevole la rigorosa esecuzione di questo, Milano si trovava ormai in tale stato da non veder cosa giovasse guardarlo e da cosa. E chiunque ci venisse poteva parer piuttosto noncurante della propria salute che pericoloso a quella dei cittadini. Su queste notizie il disegno di Renzo era di tentare d'entrar dalla prima porta a cui si fosse abbattuto. Se ci fosse qualche intoppo, riprender le mura di fuori finché ne trovasse un'altra di più facile accesso. E sai il cielo quante porte si immaginava che Milano dovesse avere. Arrivato dunque sotto le mura, si fermò a guardar d'intorno, come fa chi, non sapendo da che parte gli convenga prendere, par che n'aspetti e ne chieda qualche indizio da ogni cosa. Ma a destra e a sinistra non vedeva che due pezzi d'una strada storta, di rimpetto un tratto di mura, da nessuna parte nessun segno d'uomini viventi. Se non che, da un certo punto del terrapieno, s'alzava una colonna d'un fumo oscuro e denso, che salendo s'allargava e s'avvolgeva in ampi globi, perdendosi poi nell'aria immobile e bigia. Eran vestiti, letti e altre masserizie infette che si bruciavano. E di tali triste fiammate se ne faceva di continuo, non lì soltanto, ma in varie parti delle mura. Il tempo era chiuso, l'aria pesante, il cielo velato per tutto da una nuvola o da un nebbione uguale inerte, che pareva negare il sole senza prometter la pioggia. La campagna d'intorno, parte incolta e tutta arida, ogni verzura scolorita e neppure una gocciola di rugiada sulle foglie passe e cascanti. Per di più, quella solitudine, quel silenzio, così vicino a una gran città, aggiungevano una nuova costernazione all'inquietudine di Renzo e rendevano più tetri tutti i suoi pensieri. Stato lì alquanto, prese la diritta, all'avventura, andando senza saperlo verso Porta Nuova, della quale, quantunque vicina, non poteva accorgersi, a cagione d'un baluardo dietro cui era allora nascosta. Dopo pochi passi, principiò a sentire un tintinnio di campanelli che cessava e ricominciava ogni tanto e poi qualche voce d'uomo. Andò avanti e, passato il canto del baluardo, vide per la prima cosa un casotto di legno e sull'uscio una guardia appoggiata al moschetto con una cert'aria stracca e trascurata. Dietro c'era uno stecconato e dietro quello la porta, cioè due alacce di muro, con una tettoia sopra per riparare i battenti, i quali erano spalancati come pure il cancello dello stecconato. Però, davanti appunto all'apertura, c'era in terra un tristo impedimento. Una barella, sulla quale due monatti accomodavano un poverino per portarlo via. Era il capo dei gabellieri, a cui poco prima s'era scoperta la peste. Renzo si fermò, aspettando la fine. Partito il convoglio e non venendo nessuno a richiudere il cancello, gli parve tempo e ci s'avviò in fretta. Ma la guardia, con una manieraccia, gli gridò «Olà!» Renzo si fermò di nuovo su due piedi e, datogli d'occhio, tirò fuori un mezzo ducatone e glielo fece vedere. Colui, o che avesse già avuta la peste, o che la temesse meno di quel che amava i mezzi ducatoni, accennò a Renzo che glielo buttasse e, vistoselo volar subito a piedi, sussurrò «Vai innanzi, presto!» Renzo non se lo fece dir due volte. Passò lo stecconato, passò la porta, andò avanti senza che nessuno s'accorgesse di lui o gli badasse. Se non che, quando ebbe fatti forse 40 passi, sentì un altro «Olà!» che un gabelliere gli gridava dietro. Questa volta fece le viste di non sentire e senza voltarsi nemmeno allungò il passo. «Olà!» gridò di nuovo il gabelliere, con una voce però che indicava più impazienza che risoluzione di farsi ubbidire. E, non essendo ubbidito, alzò le spalle e tornò nella sua casaccia, come persona a cui premesse più di non accostarsi troppo ai passeggeri che di informarsi dei fatti loro. La strada che Renzo aveva presa andava allora, come adesso, diritta fino al canale, detto il Naviglio. I lati erano siepi o muri d'orti, chiese e conventi e poche case. In cima a questa strada e nel mezzo di quella che costeggia il canale c'era una colonna con una croce detta la croce di Sant'Eusebio. E per quanto Renzo guardasse innanzi, non vedeva altro che quella croce. Arrivato al crocicchio che divide la strada circa alla metà e guardando dalle due parti, vide a diritta, in quella strada che si chiama lo stradone di Santa Teresa, un cittadino che veniva appunto verso di lui. «Oh, un cristiano, finalmente!» disse tra sé. E si voltò subito da quella parte, pensando di farsi insegnare la strada da lui. Questo pure aveva visto il forestiero che s'avanzava e andava squadrandolo da lontano con uno sguardo sospettoso. E tanto più quando s'accorse che, invece d'andarsene per i fatti suoi, gli veniva incontro. Renzo, quando fu poco distante, si levò il cappello da quel montanaro rispettoso che era e, tenendolo con la sinistra, mise l'altra mano nel cocuzzolo e andò più direttamente verso lo sconosciuto. Ma questo, stralunando gli occhi affatto, fece un passo indietro, alzò un noderoso bastone e, voltata la punta, che era di ferro, alla vita di Renzo, gridò «Via, via, via!» «Oh!» gridò il giovine anche lui. Rimise il cappello in testa e, avendo tutt'altra voglia, come diceva poi quando raccontava la cosa, che di metter su lite in quel momento, voltò le spalle a quello stravagante e continuò la sua strada, o, per meglio dire, quella in cui si trovava avviato. L'altro tirò avanti anche lui per la sua, tutto fremente e voltandosi ogni momento indietro. E arrivato a casa, raccontò che gli s'era accostato un untore con un'aria umile e mansueta, con un viso d'infame impostore, con lo scatolino dell'unto o l'involtino della polvere, non era ben certo qual dei due, in mano nel cocuzzolo del cappello per fargli il tiro se lui non l'avesse saputo tener lontano. Se mi s'accostava un passo di più, soggiunse, l'infilavo addirittura prima che avesse tempo d'accomodarmi me il birbone. E la disgrazia fu che eravamo in un luogo così solitario che se era in mezzo Milano chiamavo gente e mi facevo aiutare a acchiapparlo, sicuro che gli si trovava quella scellerata porcheria nel cappello. Ma lì, da solo a solo, mi son dovuto contentare di fargli paura senza risicare di cercarmi un malanno, perché un po' di polvere è subito buttata e coloro hanno una destrezza particolare e poi hanno il diavolo dalla loro. E ora sarà in giro per Milano, chissà che strage fa. E finché visse, che fu per molt'anni, Ogni volta che si parlasse d'un Tori, ripeteva la sua storia e soggiungeva: «Quelli che sostengono ancora che non era vero, non lo vengano a dire a me, perché le cose bisogna averle viste!» Renzo, lontano dall'immaginarsi come l'avesse scampata Bella, e agitato più dalla rabbia che dalla paura, pensava camminando a quell'accoglienza e indovinava bene a un dipresso ciò che lo sconosciuto aveva pensato di lui. Ma la cosa gli pareva così irragionevole che concluse tra sé che colui doveva essere un qualche mezzo matto. «La principia male», pensava però. «Par che ci sia un pianeta per me in questo Milano. Per entrare tutto mi va a seconda e poi, quando ci son dentro, trovo i dispiaceri lì apparecchiati. Basta, con l'aiuto di Dio, se ci riesco a trovare, tutto sarà stato niente.» Arrivato al ponte, voltò senza esitare a sinistra, nella strada di San Marco, parendogli, a ragione, che dovesse condurre verso l'interno della città. E andando avanti, guardava in qua e in là, per vedere se poteva scoprire qualche creatura umana. Ma non ne vide altra che uno sformato cadavere nel piccol fosso che corre tra quelle poche case, che allora erano anche meno, e un pezzo della strada. Passato quel pezzo, sentì gridare «Oh, quell'uomo!» E guardando da quella parte, vide poco lontano, a un terrazzino d'una casuccia isolata, una povera donna, con una nidiata di bambini intorno, la quale, seguitandolo a chiamare, gli fece cenno anche con la mano. Ci andò di corsa, e quando fu vicino «Oh, quel giovine!» disse quella donna. «Per i vostri poveri morti, fate la carità d'andare a avvertire il commissario che siamo qui dimenticati. Ci hanno chiusi in casa come sospetti perché il mio povero marito è morto. Ci hanno inchiodato l'uscio, come vedete, e da ieri mattina nessuno è venuto a portarci da mangiare. In tante ore che siamo qui, non m'è mai capitato un cristiano che me la facesse questa carità, e questi poveri innocenti muoiono di fame.» «Di fame!» esclamò Renzo, e cacciate le mani nelle tasche. «Ecco, ecco!» disse tirando fuori i due pani. «Calatemi giù qualcosa da metterli dentro!» «Dio ve ne renda merito! Aspettate un momento!» disse quella donna e andò a cercare un paniere e una fune da calarlo, come fece. A Renzo, intanto, gli vennero in mente quei pani che aveva trovati vicino alla croce, nell'altra sua entrata in Milano, e pensava «Ecco, è una restituzione!» E forse meglio che se gli avessi restituiti al proprio padrone, perché qui è veramente un'opera di misericordia. «In quanto al commissario, che dite, la mia donna?» disse poi mettendo i pani nel paniere. «Io non vi posso servire in nulla, perché, per dirvi la verità, son forestiero e non son niente pratico di questo paese. Però, se incontro qualche uomo un po' domestico e umano da potergli parlare, lo dirò a lui.» La donna lo pregò che facesse così e gli disse il nome della strada onde lui sapesse indicarla. «Anche voi!» riprese Renzo. «Credo che potreste farmi un piacere, una vera carità, senza vostro incomodo. Una casa di cavalieri, di gran signoroni, qui di Milano, casa... sapreste insegnarmi dove sia?» «So che la c'è questa casa», rispose la donna. «Ma dove sia non lo so davvero. Andando avanti di qua, qualcheduno che ve la insegni lo troverete, e ricordatevi di dirgli anche di noi. Non dubitate», disse Renzo e andò avanti. A ogni passo sentiva crescere e avvicinarsi un rumore che già aveva cominciato a sentire mentre era lì fermo a discorrere. Un rumor di ruote e di cavalli, con un tintinnio di campanelli e ogni tanto un chioccar di fruste, con un accompagnamento d'urli. Guardava innanzi, ma non vedeva nulla. Arrivato allo sbocco di quella strada, scoprendosegli davanti la piazza di San Marco, la prima cosa che gli diede nell'occhio furono due travi ritte, con una corda e con certe carrucole. E non tardò a riconoscere, che era cosa familiare in quel tempo, l'abominevole macchina della tortura. Era rizzata in quel luogo, e non in quello soltanto, ma in tutte le piazze e nelle strade più spaziose, affinché i deputati d'ogni quartiere, muniti a questo d'ogni facoltà più arbitraria, potessero farci applicare immediatamente chiunque paresse loro meritevole di pena, o sequestrati che uscissero di casa, o subalterni che non facessero il loro dovere, o chiunque altro. Era uno di quei rimedi eccessivi e inefficaci, dei quali, a quel tempo, e in quei momenti specialmente, si faceva tanto scialacquio. Ora, mentre Renzo guarda quello strumento, pensando perché possa essere alzato in quel luogo, sente avvicinarsi sempre più il rumore e vede spuntar dalla cantonata della chiesa un uomo che scoteva un campanello. Era un apparitore, e dietro a lui due cavalli che, allungando il collo e puntando le zampe, venivano avanti a fatica, e strascinato da quelli un carro di morti, e dopo quello un altro, e poi un altro e un altro, e di qua e di là monatti alle costole dei cavalli, spingendoli, affrustate, a punzoni, a bestemmie. Eran quei cadaveri, la più parte ignudi, alcuni mal involtati in qualche cencio, ammonticchiati, intrecciati insieme come un gruppo di serpi che lentamente si svolgano al tepore della primavera, che a ogni intoppo, a ogni scossa, si vedevan quei mucchi funesti tremolare e scompaginarsi bruttamente e ciondolar teste e chiome verginali arrovesciarsi e braccia svincolarsi e batter sulle rote, mostrando all'occhio già inorridito come un tale spettacolo poteva divenire più doloroso e più sconcio. Il giovine s'era fermato sulla cantonata della piazza, vicino alla sbarra del canale, e pregava intanto per quei morti sconosciuti. Un atroce pensiero gli balenò in mente. Forse là, là insieme, là sotto. Oh Signore, fate che non sia vero, fate che io non ci pensi. Passato il convoglio funebre, Renzo si mosse. Attraversò la piazza, prendendo lungo il canale a mancina senza altra ragione della scelta se non che il convoglio era andato dall'altra parte. Fatti quei quattro passi tra il fianco della chiesa e il canale, vide a destra il ponte Marcellino, prese di lì, e riuscì in Borgo Nuovo. E guardando innanzi, sempre con quella mira di trovar qualcheduno da farsi insegnare la strada, vide in fondo a quella un prete in farsetto, con un bastoncino in mano, ritto vicino a un uscio socchiuso, col capo chinato e l'orecchio allo spiraglio. E poco dopo lo vide alzar la mano e benedire. Congetturò quello che era di fatto, cioè che finisse di confessar qualcheduno, e disse tra sé: «Questo è l'uomo che fa per me. Se un prete in funzion di prete non ha un po' di carità, un po' d'amore e di buona grazia, bisogna dire che non ce ne sia più in questo mondo». Intanto il prete, staccandosi dall'uscio, veniva dalla parte di Renzo, tenendosi con gran riguardo nel mezzo della strada. Renzo, quando gli fu vicino, si levò il cappello e gli accennò che desiderava parlargli fermandosi nello stesso tempo, in maniera da fargli intendere che non si sarebbe accostato di più. Quello pure si fermò, in atto di stare a sentire, puntando però in terra il suo bastoncino davanti a sé, come per farsene un baluardo. Renzo espose la sua domanda, alla quale il prete soddisfece non solo con dirgli il nome della strada dove la casa era situata, ma dandogli anche, come vide che il poverino ne aveva bisogno, un po' di itinerario, indicandogli cioè, a forza di diritte e di mancine, di chiese e di croci, quell'altre sei o otto strade che aveva da passare per arrivarci. «Dio la mantenga sano in questi tempi e sempre», disse Renzo. E mentre quello si muoveva per andarsene, «un'altra carità», soggiunse, e gli disse della povera donna dimenticata. Il buon prete ringraziò lui d'avergli dato occasione di fare una carità così necessaria e, dicendo che andava ad avvertire chi bisognava, tirò avanti. Renzo si mosse anche lui e, camminando, cercava di fare a se stesso una ripetizione dell'itinerario per non essere da capo a dover domandare a ogni cantonata. Ma non potreste immaginarvi come quell'operazione gli riuscisse penosa, e non tanto per la difficoltà della cosa in sé, quanto per un nuovo turbamento che gli era nato nell'animo. Quel nome della strada, quella traccia del cammino, l'aveva messo così sotto sopra. Era l'indizio che aveva desiderato e domandato e del quale non poteva far di meno, né gli era stato detto nient'altro da che potesse ricavare nessun augurio sinistro. Ma che volete? Quell'idea un po' più distinta ad un termine vicino, dove uscirebbe d'una grande incertezza, dove potrebbe sentirsi dire «è viva» o sentirsi dire «è morta». Quell'idea l'aveva così colpito che in quel momento gli sarebbe piaciuto più di trovarsi ancora ai buio di tutto, d'essere al principio del viaggio di cui ormai toccava la fine. Raccolse però le sue forze e disse a se stesso: «Ehi, se principiamo ora a fare il ragazzo, comanderà». Così rinfrancato alla meglio, seguitò la sua strada, inoltrandosi nella città. Quale città? E cos'era mai, al paragone, quello che era stata l'anno avanti per cagion della fame? Renzo s'abbatteva appunto a passare per una delle parti più squallide e più desolate, quella crociata di strade che si chiamava il Carrobbio di Porta Nuova. C'era allora una croce nel mezzo e di rimpetto ad essa, accanto a dove ora è San Francesco di Paola, una vecchia chiesa col titolo di Sant'Anastasia. Tanta era stata in quel vicinato la furia del contagio e il fetor dei cadaveri lasciati lì che i pochi rimasti vivi erano stati costretti a sgomberare. Sicché, alla mestizia che dava al passeggero quell'aspetto di solitudine e d'abbandono, s'aggiungeva l'orrore e lo schifo delle tracce e degli avanzi della recente abitazione. Renzo affrettò il passo, facendosi coraggio col pensare che la meta non doveva essere così vicina e sperando che prima d'arrivarci troverebbe mutata almeno in parte la scena. E infatti, di lì a non molto, riuscì in un luogo che poteva pur dirsi città di viventi. Ma quale città ancora? E quali viventi? Serrati per sospetto e per terrore tutti gli usci di casa, salvo quelli che fossero spalancati per essere le case disabitate o invase, altri inchiodati e sigillati per essere nelle case morta o ammalata gente di peste, altri segnati d'una croce fatta col carbone per indizio ai monatti che c'eran de morti da portar via. Il tutto più all'avventura che altro, secondo che si fosse trovato piuttosto qua che là un qualche commissario della sanità o altro impiegato che avesse voluto eseguire gli ordini o fare un'angheria. Per tutto cenci e, più ributtanti de cenci, fasce marciose, strame ammorbato o lenzoli buttati dalle finestre, talvolta corpi o di persone morte all'improvviso, nella strada, e lasciati lì finché passasse un carro da portarli via, o cascati da carri medesimi, o buttati anch'essi dalle finestre. Tanto l'insistere e l'imperversar del disastro aveva insalvatichiti gli animi e fatto dimenticare ogni cura di pietà, ogni riguardo sociale. Cessato per tutto ogni rumor di botteghe, ogni strepito di carrozze, ogni grido di venditori, ogni chiacchierio di passeggeri. Era ben raro che quel silenzio di morte fosse rotto da altro che da rumor di carri funebri, da lamenti di poveri, da rammarichio di infermi, da urli di frenetici, da grida di monatti. All'alba, a mezzogiorno, a sera, una campana del Duomo dava il segno di recitar certe preci assegnate dall'arcivescovo. A quel tocco rispondeva alle campane delle altre chiese. E allora avreste veduto persone affacciarsi alle finestre a pregare in comune. Avreste sentito un bisbiglio di voci e di gemiti che spirava una tristezza mista pure di qualche conforto. Morti a quell'ora forse i 2/3 dei cittadini, andati via o ammalati una buona parte del resto, ridotto quasi a nulla il concorso della gente di fuori, de pochi che andavan per le strade, non se ne sarebbe per avventura in un lungo giro incontrato uno solo in cui non si vedesse qualcosa di strano e che dava indizio d'una funesta mutazione di cose. Si vedevano gli uomini più qualificati senza cappa né mantello, parte allora essenzialissima del vestiario civile, senza sottana i preti e anche dei religiosi in farsetto. Dismessa, insomma, ogni sorte di vestito che potesse, con gli svolazzi, toccar qualche cosa o dare, ciò che si temeva più di tutto il resto, agio agli untori. E fuor di questa cura d'andar succinti e ristretti il più che fosse possibile, negletta e trasandata ogni persona. Lunghe le barbe di quelli che usavan portarle, cresciute a quelli che prima costumavan di raderle, lunghe pure e arruffate le capigliature, non solo per quella trascuranza che nasce da un invecchiato abbattimento, ma per esser divenuti sospetti i barbieri, da che era stato preso e condannato come un tor famoso uno di loro, Gian Giacomo Mora, nome che per un pezzo conservò una celebrità municipale d'infamia e ne meriterebbe una ben più diffusa e perenne di pietà. I più tenevano da una mano un bastone, alcuni anche una pistola, per avvertimento minaccioso a chi avesse voluto avvicinarsi troppo. Dall'altra pasticche odorose o palle di metallo o di legno traforate, con dentro spugne inzuppate da ceti medicati, e se le andavano ogni tanto mettendo al naso o ce le tenevano di continuo. Portavano alcuni attaccata al collo una boccetta con dentro un po' d'argento vivo, persuasi che avesse la virtù d'assorbire e di ritenere ogni esalazione pestilenziale, e avevan poi cura di rinnovarlo ogni tanti giorni. I gentiluomini non solo uscivano senza il solito seguito, ma si vedevano, con una sporta in braccio, andare a comprare le cose necessarie al vitto. Gli amici, quando pur due si incontrassero per la strada, si salutavano da lontano, con cenni taciti e frettolosi. Ognuno, camminando, aveva molto da fare per scansare gli schifosi e mortiferi inciampi di cui il terreno era sparso e in qualche luogo anche affatto ingombro. Ognuno cercava di stare in mezzo alla strada, per timore d'altro sudiciume o d'altro più funesto peso che potesse venir giù dalle finestre, per timore delle polveri benefiche, che si diceva esser spesso buttate da quelle su passeggeri, per timore delle muraglie, che potevano essere unte. Così l'ignoranza, coraggiosa e guardinga alla rovescia, aggiungeva ora angustie all'angustie e dava falsi terrori in compenso dei ragionevoli e salutari che aveva levati da principio. Tale era ciò che di meno deforme e di men compassionevole si faceva vedere intorno, i sani, gli agiati, che dopo tante immagini di miseria e pensando a quella ancor più grave per mezzo alla quale dovremmo condurre il lettore. Non ci fermeremo ora a dir qual fosse lo spettacolo degli appestati che si strascicavano o giacevano per le strade, dei poveri, dei fanciulli, delle donne. Era tale che il riguardante poteva trovar quasi un disperato conforto in ciò che ai lontani e ai posteri fa la più forte e dolorosa impressione. Nel pensare, dico, nel vedere quanto quei viventi fossero ridotti a pochi. In mezzo a questa desolazione aveva Renzo fatto già una buona parte del suo cammino, quando, distante ancor molti passi da una strada in cui doveva voltare, sentì venir da quella un vario frastuono nel quale si faceva distinguere quel solito orribile tintinnio. Arrivato alla cantonata della strada, che era una delle più larghe, vide quattro carri fermi nel mezzo. E come in un mercato di granaglie si vede un andare e venire di gente, un caricare e un rovesciar di sacchi, tal era il movimento in quel luogo. Monatti che entravano nelle case, monatti che n'uscivano con un peso sulle spalle e lo mettevano sull'uno o sull'altro carro. Alcuni con la divisa rossa, altri senza quel distintivo. Molti con uno ancor più odioso. Pennacchi e fiocchi di vari colori che quegli sciagurati portavano come per segno d'allegria in tanto pubblico lutto. Ora da una, ora da un'altra finestra veniva una voce lugubre: «Qua, Monatti!» E con un suono ancor più sinistro, da quel tristo brulichio usciva qualche vociaccia che rispondeva: «Ora, ora!» Ovvero eran pigionali che brontolavano e dicevano di far presto, ai quali i monatti rispondevano con bestemmie. Entrato nella strada, Renzo allungò il passo cercando di non guardar quegli ingombri se non quanto era necessario per iscansarli, quando il suo sguardo si incontrò in un oggetto singolare di pietà, d'una pietà che invogliava l'animo a contemplarlo, di maniera che si fermò quasi senza volerlo. Scendeva dalla soglia d'uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata ma non trascorsa, e vi traspariva una bellezza velata e offuscata ma non guasta da una gran passione e da un languor mortale. Quella bellezza molle a un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata, ma non cascante. Gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno d'averne sparse tante. C'era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo, che attestava un'anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che tra tante miserie la indicasse così particolarmente alla pietà e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito nei cuori. Portava essa in collo una bambina di forse 9 anni, morta, ma tutta ben accomodata, co capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data per premio. Né la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva. Se non che una manina, bianca a guisa di cera, spenzolava da una parte, con una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull'omero della madre con un abbandono più forte del sonno. Della madre, che se anche la somiglianza dei volti non ne avesse fatto fede, l'avrebbe detto chiaramente quello dei due che esprimeva ancora un sentimento. Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però d'insolito rispetto, con un'esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro senza però mostrare sdegno né disprezzo, «No», disse, «non me la toccate per ora. Devo metterla io su quel carro. Prendete». Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò, «Promettetemi di non levarle un filo d'intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo, e di metterla sottoterra così». Il monatto si mise una mano al petto e poi, tutto premuroso e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato che per l'inaspettata ricompensa, s'affaccendò a fare un po' di posto sul carro per la morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come su un letto, ce l'accomodò, le stese sopra un panno bianco e disse l'ultime parole. «Addio, Cecilia, riposa in pace. Stasera verremo anche noi per restar sempre insieme. Prega intanto per noi, che io pregherò per te e per gli altri». Poi voltatasi di nuovo al monatto. «Voi», disse, «passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola». Così detto, rientrò in casa e un momento dopo s'affacciò alla finestra, tenendo in collo un'altra bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima, finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere. Poi disparve. E che altro poté fare, se non posar sul letto l'unica che le rimaneva e mettersele accanto per morire insieme, come il fiore già rigoglioso sullo stelo, cade insieme col fiorellino ancora in boccia, al passar della falce che pareggia tutte le erbe del prato. «Oh, signore!» esclamò Renzo. «Esauditela, tiratela voi. Lei e la sua creaturina hanno patito abbastanza, hanno patito abbastanza». Riavuto da quella commozione straordinaria e mentre cerca di tirarsi in mente l'itinerario per trovare se alla prima strada deve voltare e se a diritta o a mancina, sente anche da questa venire un altro e diverso strepito, un suono confuso di grida imperiose, di fiochi lamenti, un pianger di donne, un mugolio di fanciulli. Andò avanti con in cuore quella solita, trista e oscura aspettativa. Arrivato al crocicchio, vide da una parte una moltitudine confusa che s'avanzava e si fermò lì per lasciarla passare. Erano ammalati che venivano condotti al lazzeretto. Alcuni, spinti a forza, resistevano invano. Invano gridavano che volevano morire sul loro letto e rispondevano con inutili imprecazioni alle bestemmie e ai comandi dei monatti che li guidavano. Altri camminavano in silenzio, senza mostrar dolore né alcun altro sentimento, come insensati. Donne co bambini in collo, fanciulli spaventati dalle grida, da quegli ordini, da quella compagnia, più che dal pensiero confuso della morte, i quali ad alte strida imploravano la madre e le sue braccia fidate e la casa loro. Ahi, e forse la madre, che credevano d'aver lasciata addormentata sul suo letto, ci s'era buttata, sorpresa tutta un tratto dalla peste, e stava lì, senza sentimento, per esser portata sur un carro al lazzeretto o alla fossa, se il carro veniva più tardi. Forse, o sciagura degna di lacrime ancor più amare, la madre, tutta occupata dei suoi patimenti, aveva dimenticato ogni cosa, anche i figli, e non aveva più che un pensiero: di morire in pace. Pure, in tanta confusione, si vedeva ancora qualche esempio di fermezza e di pietà. Padri, madri, fratelli, figli, consorti che sostenevano i cari loro e li accompagnavano con parole di conforto, né adulti soltanto, ma ragazzetti, ma fanciulline, che guidavano i fratellini più teneri e, con giudizio e con compassione da grandi, raccomandavano loro d'essere ubbidienti, gli assicuravano che s'andava in un luogo dove c'era chi avrebbe cura di loro per farli guarire. In mezzo alla malinconia e alla tristezza di tali viste, una cosa toccava più sul vivo e teneva in agitazione il nostro viaggiatore. La casa doveva essere lì vicina, e chissà se tra quella gente, ma passata tutta la comitiva e cessato quel dubbio, si voltò a un monatto che veniva dietro e gli domandò della strada e della casa di Don Ferrante. «E malora, Tanghero!» fu la risposta che n'ebbe. Né si curò di dare a colui quella che si meritava, ma visto a due passi un commissario che veniva in coda al convoglio e aveva visto un po' più cristiano, fece a lui la stessa domanda. Questo, accennando con un bastone la parte d'onde veniva, disse: «La prima strada a diritta, l'ultima casa grande a sinistra». E con una nuova e più forte ansietà in cuore, il giovine prende da quella parte, è nella strada, distingue subito la casa tra l'altre, più basse e meschine, s'accosta al portone, che è chiuso, mette la mano sul martello e ce la tien sospesa come in un'urna, prima di tirar su la polizza dove fosse scritta la sua vita o la sua morte. Finalmente alza il martello e dà un picchio risoluto. Dopo qualche momento s'apre un poco una finestra. Una donna fa capolino, guardando chi era, con un viso ombroso che par che dica: «Monatti, vagabondi, commissari, untori, diavoli». «Quella signora!» disse Renzo guardando in su e con voce non troppo sicura. «Ci sta qui a servire una giovine di campagna che ha nome Lucia?» «Là non c'è più, andate», rispose quella donna, facendo atto di chiudere. «Un momento, per carità, là non c'è più, dov'è?» «Al lazzeretto». E di nuovo voleva chiudere. «Ma un momento, per l'amor del cielo, con la peste!» «Già, cosa nuova, eh? Andate!» «Oh, povero me, aspetti! Era malata molto, quanto tempo è?» Ma intanto la finestra fu chiusa davvero. Quella signora, una parola, per carità! Per i suoi poveri morti non le chiedo niente del suo! Ehi!» Ma era come dire al muro. Afflitto della nuova e arrabbiato della maniera, Renzo afferrò ancora il martello e, così appoggiato alla porta, andava stringendolo e storcendolo. L'alzava per picchiar di nuovo alla disperata, poi lo teneva sospeso. In questa agitazione si voltò per vedere se mai ci fosse d'intorno qualche vicino da cui potesse, forse, aver qualche informazione più precisa, qualche indizio, qualche lume. Ma la prima, l'unica persona che vide, fu un'altra donna, distante forse un 20 passi, la quale, con un viso che esprimeva terrore, odio, impazienza e malizia, con certi occhi stravolti che volevano insieme guardar lui e guardar lontano, spalancando la bocca come in atto di gridare a più non posso, ma rattenendo anche il respiro, alzando due braccia scarne, allungando e ritirando due mani grinzose e piegate a guisa d'artigli, come se cercasse d'acchiappar qualcosa. Si vedeva che voleva chiamar gente in modo che qualcheduno non se n'accorgesse. Quando si incontrarono a guardarsi, colei, fattasi ancor più brutta, si riscosse come persona sorpresa. «Che diamine!» cominciava Renzo, alzando anche lui le mani verso la donna. Ma questa, perduta la speranza di poterlo far cogliere all'improvviso, lasciò scappare il grido che aveva rattenuto fin allora. «L'untore! Dagli! Dagli! Dagli all'untore!» «Chi? Io?» «Oh, strega, bugiardo, sta zitta!» gridò Renzo e fece un salto verso di lei per impaurirla e per farla chetare. Ma s'avvide subito che aveva bisogno piuttosto di pensare ai casi suoi. Allo strillar della vecchia accorreva gente di qua e di là, non la folla che, in un caso simile, sarebbe stata 3 mesi prima, ma più che abbastanza per poter fare d'un uomo solo quel che volessero. Nello stesso tempo s'aprì di nuovo la finestra e quella medesima sgarbata di prima ci s'affacciò questa volta e gridava anche lei: «Pigliatelo! Pigliatelo! Che deve essere uno di quei birboni che vanno in giro a unger le porte dei galantuomini!» Renzo non istette lì a pensare. Gli parve subito miglior partito sbrigarsi da coloro che rimanere lì a dir le sue ragioni. Diede un'occhiata a destra e a sinistra, da che parte ci fosse men gente, e svignò di là. Respinse con un urtone uno che gli parava la strada. Con un gran punzone nel petto fece dare indietro 8 o 10 passi un altro che gli correva incontro. E via di galoppo, col pugno in aria, stretto, nocchiuto, pronto per qualunque altro gli fosse venuto tra piedi. La strada davanti era sempre libera, ma dietro le spalle sentiva il calpestio e, più forti del calpestio, quelle grida amare: «Dagli, dagli all'untore!» Non sapeva quando fossero per fermarsi, non vedeva dove si potrebbe mettere in salvo. L'ira divenne rabbia, l'angoscia si cangiò in disperazione e, perso il lume degli occhi, mise mano al suo coltellaccio, lo sfoderò, si fermò su 2 piedi, voltò indietro il viso più torvo e più cagnesco che avesse fatto ai suoi giorni e, col braccio teso, brandendo in aria la lama luccicante, gridò: «Chi ha cuore, venga avanti, canaglia, che lungerò io davvero con questo!» Ma con maraviglia e con un sentimento confuso di consolazione, vide che i suoi persecutori s'eran già fermati e stavan lì come titubanti e che, seguitando a urlare, facevan con le mani per aria certi cenni da spiritati, come a gente che venisse di lontano dietro a lui. Si voltò di nuovo e vide che il gran turbamento non gliel'aveva lasciato vedere un momento prima un carro che s'avanzava. Anzi, una fila di quei soliti carri funebri, col solito accompagnamento. E dietro, a qualche distanza, un altro mucchietto di gente che avrebbero voluto anche loro dare addosso all'untore e prenderlo in mezzo, ma eran trattenuti dall'impedimento medesimo. Vistosi così tra 2 fuochi, gli venne in mente che ciò che era di terrore a coloro poteva essere a lui di salvezza. Pensò che non era tempo di farlo schizzinoso. Rimise il coltellaccio nel fodero, si tirò da una parte, prese la rincorsa verso i carri, passò il primo e adocchiò nel secondo un buono spazio vuoto. Prende la mira, spicca un salto e su, piantato sul piede destro, col sinistro in aria e con le braccia alzate. «Bravo, bravo!» esclamarono a una voce i monatti, alcuni dei quali seguivano il convoglio a piedi, altri erano seduti sui carri, altri, per dire l'orribil cosa com'era, sui cadaveri, trincando da un gran fiasco che andava in giro. «Bravo, bel colpo! Sei venuto a metterti sotto la protezione dei monatti. Fa conto d'essere in chiesa», gli disse uno dei 2 che stavano sul carro dove era montato. I nemici, all'avvicinarsi del treno, avevano i più voltate le spalle e se ne andavano, non lasciando di gridare: «Dagli, dagli all'untore!» qualcheduno si ritirava più adagio, fermandosi ogni tanto e voltandosi con versacci e con gesti di minaccia a Renzo, il quale, dal carro, rispondeva loro dibattendo i pugni in aria. «Lascia fare a me», gli disse un monatto, e strappato d'addosso a un cadavere un laido cencio, l'annodò in fretta e, presolo per una delle cocche, l'alzò come una fionda verso quegli ostinati e fece le viste di buttarglielo, gridando «Aspetta, canaglia!». A quell'atto fuggiron tutti, inorriditi, e Renzo non vide più che schiene di nemici e calcagni che ballavano rapidamente per aria a guisa di gualchiere. Tra i monatti s'alzò un urlo di trionfo, uno scroscio procelloso di risa, un «uh!» prolungato come per accompagnar quella fuga. «Vedi se noi sappiamo proteggere i galantuomini», disse a Renzo quel monatto. «Val più uno di noi che 100 di quei poltroni». «Certo, posso dire che vi devo la vita», rispose Renzo, «e vi ringrazio con tutto il cuore». «Di che cosa?» disse il monatto. «Tu lo meriti. Si vede che sei un bravo giovine. Fai bene a ungere questa canaglia. Ungili e stirpali costoro, che non valgono qualcosa se non quando sono morti, che per ricompensa della vita che facciamo ci maledicono e vanno dicendo che finita la moria ci vogliono far impiccar tutti. Hanno a finir prima loro che la moria, e i monatti hanno a restar soli a cantar vittoria e a sguazzar per Milano. Viva la moria e moia la marmaglia!» esclamò l'altro, e con questo bel brindisi si mise il fiasco alla bocca e, tenendolo con tutte e due le mani tra le scosse del carro, diede una buona bevuta, poi lo porse a Renzo, dicendo «Bevi alla nostra salute!» «Ve l'auguro a tutti, con tutto il cuore», disse Renzo, «ma non ho sete, non ho proprio voglia di bere in questo momento». «Tu hai avuto una bella paura, a quel che mi pare», disse il monatto. «Ma è l'aria d'un povero uomo, se ci vuole altri visi a far l'untore. Ognuno si ingegna come può», disse l'altro. «Dammelo qui a me», disse uno di quelli che venivano a piedi accanto al carro, «che ne voglio bere anch'io un altro sorso alla salute del suo padrone che si trova qui, in questa bella compagnia, lì appunto mi pare, no? In quella bella carrozzata». E con un suo atroce e maledetto ghigno accennava il carro davanti a quello su cui stava il povero Renzo. Poi, composto il viso a un atto di serietà ancor più bieco e fellonesco, fece una riverenza da quella parte e riprese: «Si contenta, padron mio, che un povero monattuccio assaggi di quello della sua cantina? Vede bene, si fa certe vite, siamo quelli che l'abbiamo messo in carrozza per condurlo in villeggiatura, e poi già lor signori il vino fa subito male. I poveri monatti hanno lo stomaco buono». E tra le risate dei compagni prese il fiasco e l'alzò. Ma prima di bere si voltò a Renzo, gli fissò gli occhi in viso e gli disse con una certa aria di compassione sprezzante: «Bisogna che il diavolo col quale hai fatto il patto sia ben giovine, che se non eravamo lì noi a salvarti, lui ti dava un bell'aiuto». E tra un nuovo scroscio di risa s'attaccò il fiasco alle labbra. «E noi, e noi?» gridarono più voci dal carro che era avanti. Il birbone, tracannato quanto ne volle, porse con tutte e due le mani il gran fiasco a quegli altri suoi simili, i quali se lo passarono dall'uno all'altro, fino a uno che, voltatolo, lo prese per il collo, gli fece fare il mulinello e lo scagliò a fracassarsi sulle lastre, gridando «Viva la moria!». Dietro a queste parole intonò una loro canzonaccia e subito alla sua voce s'accompagnarono tutte l'altre di quel turpe coro. La cantilena infernale mista al tintinnio dei campanelli, al cigolio dei carri, al calpestio dei cavalli, risonava nel vuoto silenzioso delle strade e, rimbombando nelle case, stringeva amaramente il cuore dei pochi che ancor le abitavano. Ma cosa non può alle volte venire in acconcio? Cosa non può far piacere in qualche caso? Il pericolo d'un momento prima aveva resa più che tollerabile a Renzo la compagnia di quei morti e di quei vivi. E ora fu ai suoi orecchi una musica, sto per dire gradita, quella che lo levava dall'impiccio d'una tale conversazione. Ancor mezzo affannato e tutto sottosopra, ringraziava intanto alla meglio, in cuor suo, la provvidenza d'essere uscito d'un tal frangente senza ricever male né farne. La pregava che l'aiutasse ora a liberarsi anche da suoi liberatori. E dal canto suo stava allerta, guardava quelli, guardava la strada, per cogliere il tempo di sdrucciolar giù quatto quatto, senza dar loro occasione di far qualche rumore, qualche scenata che mettesse in malizia i passeggeri. Tutto a un tratto, a una cantonata, gli parve di riconoscere il luogo. Guardò più attentamente e ne fu sicuro. Sapete dov'era? Sul corso di Porta Orientale, in quella strada per cui era venuto ad agio e tornato via in fretta circa 20 mesi prima. Gli venne subito in mente che di lì s'andava diritto al lazzeretto, e questo trovarsi sulla strada giusta, senza studiare, senza domandare, l'ebbe per un tratto speciale della provvidenza e per buon augurio del rimanente. In quel punto veniva incontro ai carri un commissario, gridando a Monatti di fermare e non so che altro. Il fatto è che il convoglio si fermò e la musica cambiò in un diverbio rumoroso. Uno dei Monatti che era sul carro di Renzo saltò giù. Renzo disse all'altro: «Vi ringrazio della vostra carità, Dio ve ne renda merito», e giù anche lui dall'altra parte. «Va, va, povero untorello», rispose colui, «non sarai tu quello che spianti Milano». Per fortuna non c'era chi potesse sentire. Il convoglio era fermato sulla sinistra del corso. Renzo prende in fretta dall'altra parte e, rasentando il muro, trotta innanzi verso il ponte. Lo passa, continua per la strada del borgo, riconosce il convento dei Cappuccini, è vicino alla porta, vede spuntar l'angolo del lazzeretto, passa il cancello e gli si spiega davanti la scena esteriore di quel recinto. Un indizio appena e un saggio e già una vasta, diversa, indescrivibile scena. Lungo i due lati che si presentano a chi guardi da quel punto era tutto un brulichio. Erano ammalati che andavano in compagnie al lazzeretto, altri che sedevano o giacevano sulle sponde del fossato che lo costeggia, sia che le forze non fossero loro bastate per condursi fin dentro al ricovero, sia che, usciti di là per disperazione, le forze fossero loro ugualmente mancate per andar più avanti. Altri meschini erravano sbandati, come stupidi, e non pochi fuor di sé affatto. Uno stava tutto infervorato a raccontar le sue immaginazioni a un disgraziato che giaceva oppresso dal male. Un altro dava nelle smanie, un altro guardava in qua e in là con un visino ridente come se assistesse a un lieto spettacolo. Ma la specie più strana e più rumorosa d'una tal trista allegrezza era un cantare alto e continuo, il quale pareva che non venisse fuori da quella miserabile folla, eppure si faceva sentire più che tutte le altre voci. Una canzone contadinesca, d'amore gaio e scherzevole, di quelle che chiamavan villanelle, e andando con lo sguardo dietro al suono per riscoprire chi mai potesse essere contento in quel tempo, in quel luogo, si vedeva un meschino che, seduto tranquillamente in fondo al fossato, cantava a più non posso, con la testa per aria. Renzo aveva appena fatti alcuni passi lungo il lato meridionale dell'edificio che si sentì in quella moltitudine un rumore straordinario e di lontano voci che gridavano «Guarda! Piglia!» S'alza in punta di piedi e vede un cavallaccio che andava di carriera, spinto da un più strano cavaliere. Era un frenetico che, vista quella bestia sciolta e non guardata accanto a un carro, c'era montato in fretta a bisdosso e, martellandole il collo co pugni e facendo sproni dei calcagni, la cacciava in furia e Monatti dietro urlando. E tutto si ravvolse in un nuvolo di polvere che volava lontano. Così, già sbalordito e stanco di veder miserie, il giovine arrivò alla porta di quel luogo, dove ce n'erano adunate forse più che non ce ne fosse disparse in tutto lo spazio che gli era già toccato di percorrere. S'affaccia a quella porta, entra sotto la volta e rimane un momento immobile a mezzo del portico. Maria Paiato ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini con Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.